Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Sarà che è l'orecchino che mi ha colpito particolarmente? Sarà che quell'accetto nero con cui è legata la camicetta, una maglietta, non so bene che sia, accessorio femminile per la parte superiore del corpo, che ha un fiocco abbastanza inquietante quanto sbarazzino? Sarà lo sguardo, sarà l'inquietudine, sarà che sembra proprio che abbia voglia di raccontarmi qualcosa. Io attacco bottone con la ragazza che ho davanti a me e devo dire che non rimango deluso, perché mi rendo conto che ha voglia di parlare e mi parla tanto, mi parla di sé, della sua vita, della sua Sardegna da cui è partita, della terra in cui è arrivata, dei suoi amori, delle sue storie, delle sue delusioni. Insomma, io penso che arriverò alla fine del viaggio che di questa donna saprò quasi tutto, perché tutto è impossibile saperlo di una donna. Ma perché è molto geloso il tuo fidanzato? Molto geloso. Diciamo che alla sua età lui cerca di custodire bene quanto è faticosamente riuscito a, sì, a, in questo caso a conquistare, a trovare insperatamente. Cioè tu sei il gioiello prezioso, sì, che tiene nel suo scrigno. E così mi fa sentire. Ma quanti anni passano? Quanti anni passano tra voi? Ben dieci. Vabbè, 10 è il minimo, non è tanto. No, vabbè, ok. Diciamo che allora nel mio immaginario individuale avevo sempre nella testa un coetaneo come futuro compagno di vita. Una volta invece dicevano donna di 18, uomo di 28, le nostre nonne, era la regola. Vabbè, allora se funziona questo divario di 10, in realtà lui è molto più attivo di me ed è anche bello giovane, come dire, aitante, sempre in gran forma, molto più prestante sotto mille punti di vista. Alla fine quello che torna a casa sempre come uno straccetto sono io, per cui... lo sai, però sembra... le generazioni precedenti avevano mangiato forse cibi più sani, non lo so cosa. Sì, probabilmente a Firenze dove ha vissuto lui, tanta bella fiorentina, quintali di fiorentina, come sempre. Comunque lo sento che lo ripeti spesso questa cosa della differenza d'età. Perché la senti così? No, ma la ripeto sempre, ma in realtà è una cosa di cui io sono molto felice, perché mi dà parecchia sicurezza, in quanto quando ho avuto a che fare con un coetaneo con cui tra l'altro ho svolto un percorso lungo, percorso di vita, il nevralgico, il passaggio dal mondo dello studio al mondo del lavoro. Cioè il primo fidanzatino, quello del... Il primo fidanzatino, sì, 10 anni e mezzo poi siamo stati fidanzati. 10 anni e mezzo? Sì. Beh, ci credo che ne hai trovato uno più grande, perché... Sì, appunto, quindi dopo aver avuto a che fare con un coetaneo che ha svolto un percorso in parallelo, ho capito che è meglio crearsi un margine di... E com'è finita con lo studentello? È finita perché dopo, all'indomani della laurea lì in Sardegna, dove ci siamo, io vivevo in Sardegna, ci siamo conosciute, abbiamo affrontato tutto il percorso di studi, all'indomani della laurea mi ha lanciato un po' una sfida, mi ha detto: bene, adesso cosa facciamo, vuoi mica fare la professorina che fa le sostituzioni nei vari paesini, cerchiamo di fare qualcosa di più, è meglio per noi. E qual era la proposta? Lasciamo l'isola, nella sua idea era quella di lasciare l'isola, e ci siamo laureati entrambi nello stesso ramo, quindi parlava al plurale con un progetto che apparentemente, insomma, sembrava comune e condivisibile, no? Invece? Lasciamo l'isola e andiamo a fare un master fuori. E invece poi lui ha puntato sul giornalismo, che lo ha portato prima a Roma e poi a ritornare in Sardegna, e io ho puntato sull'editoria, sono rimasta incastrata a Milano. per cui in un anno di... Vabbè, se ci fosse stato un amore indissolubile, erano stupidaggini questo, ognuno poteva fare il suo lavoro, che vuol dire? Non è proprio così, perché in quei 10 anni comunque abbiamo vissuto sempre molto vicini, sempre abbiamo condiviso tante tante cose, per cui quando si è verificato l'anno di distacco si è creato un vuoto pneumatico su tutto e sì, non c'era più una condivisione di niente. Sì, ognuno di voi ha visto che al di là del mare c'era qualcos'altro, forse. Sì, specialmente io, perché c'è stato solo un momento in cui lui mi ha chiesto di valutare un ritorno, visto che era insostenibile questa cosa, e io ho capito che non avrei voluto certo diventare la mamma che teneva in braccio il bambino e con l'altra mano magari riordinava e rassettava la cucina mentre vedeva il proprio marito alla televisione che conduceva il telegiornale. Con 6 suocere però intorno che ti controllano e dicono quello che devi fare. No, in realtà su quello ero molto fortunata, avevo una suocera molto molto simpatica e affettuosa, la mamma chioccia nel senso buono. No, su quello ero molto fortunata. Però diciamo che alla fine ho scelto di accettare Milano come una sfida e quindi anche di ripartire da zero, per cui si è disdetta la prenotazione della chiesa, non si è più parlato di matrimonio. Eravate proprio al prete, praticamente sul soglio della chiesa eravate arrivati. Sì, io l'ho conosciuto che avevo 19 anni, è stato il mio primo fidanzato, quindi arrivata quasi alla soglia dei 30 si pensava anche a un matrimonio, ecco perché non volevo ritornare giù in Sardegna. Beh, sei salvata la vita comunque, sarà un matrimonio. Sì, è stato il primo di una lunga serie di autosalvataggi. E poi il secondo salvataggio quando è stato? Con lo salvataggio in questi ultimi 10 anni trascorsi qui in questa città, salvarsi da relazioni pericolose, sbagliate. E tu avrai fatto esattamente l'opposto di quello che hai fatto per 10 anni, invece che un fidanzatino fisso, fidanzati multipli a tutte le ore. Diciamo che ho cominciato a guardarmi intorno, anche perché dopo 10 anni di concubinaggio, sì, ho cominciato a guardare un po' anche. Beh, dovevi recuperare 10 anni di monogamia forzata, diciamo. Per poi approdare invece anche lì a una situazione abbastanza complicata, perché ho incontrato un uomo che mi ha veramente letteralmente fatto impazzire fin dal primo momento in cui l'ho conosciuto, in cui gli ho stretto la mano e che ho osservato a distanza per quasi un anno, perché lui era sposato, non felicemente, ma... Quindi sei andata a metterti in un altro bel incastro, no? Ma in maniera molto umile e silente, coltivavo questa cosa. Beh, silente per forza, c'era una moglie, mica potevi farlo alla luce del sole. Esatto, quindi non ho fatto fuochi d'artificio, non mi sono messa a... Vabbè, c'hai lati positivi, stai tranquilla. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Anche lui era abbastanza condizionato, forse. Ma lui diciamo che all'inizio era mosso da questo, anche questa condivisione con me, perché le persone dicono che io ho un grande dote, quella dell'ascolto e poi i consigli eccetera. Vabbè, queste sono le cose che si dicono per non svelare il nostro lato animalesco, tu hai la dote dell'ascolto, ma un uomo non sta con te perché è la dote dell'ascolto, dai. No, però questo ascoltare e consigliare mi ha reso un po' più partecipe della sua vita, no? Per cui a un certo punto... L'amante radio, la dote dell'ascolto. Sì, poi c'è stata anche una felicità. Beh, lui comunque si è abbastanza lamentato per molto tempo, tu l'hai ascoltato, la spalla in cui lui... Sì, frattanto si vivevano, in realtà c'è stato un collante che poi è lo sport. Ah, facciate sport assieme? Sì, nel senso che sì, di un certo tipo. E che beh, è anche una bella scusa, si fa le trasferte, nessuno deve giustificare. Infatti, vedi, mi hai preceduto. Nessuno si deve giustificare, beh, ho vissuto. Appunto, e quindi di trasferta in trasferta, di soddisfazione in soddisfazione a livello sportivo, poi ovviamente due persone si accorgono, ah caspita, non ci piace solo la stessa canzone, ci piace anche la stessa attività. E quindi avete deciso cosa? Il grande passo? E quindi sì, lo ha deciso, questa cosa mi è piaciuta tanto. Cioè ha mollato la moglie, ha mollato? È un gesto raro, però nessuno lo fa. L'ha fatto con un percorso proprio di accompagnamento molto, molto dolce, non ha assolutamente interrotto. Ci ha detto: cara, scusa, una sorpresa, mettiti in piedi sul davanzale e l'ha accompagnata dal cimento. Ma come ha fatto? Allora, cara, no, non lo so, perché lui mi parlava sempre di lei come la coinquilina. Beh sì, certo, tutti lo dicono, come una sorella, siamo fratello e sorella. La coinquilina, certo. Fratello e sorella, non dormiamo più assieme, quando non c'è niente, tutti gli uomini lo dicono. Casi di questo tipo. Lo so. Mica ti viene a dire, uno tutte le sere torna a casa, stappo lo champagne a mia moglie e stiamo fino all'alba a fare le zozzerie. No, anzi, nel suo caso, povero, devo dire che era lui che badava anche abbastanza un po' a tutte le cose. Perché era infelice la moglie, cosa aveva? Ma quando c'è una vita molto chiusa in se stessa, molto concentrata sul lavoro, sulla mamma che ha una certa età, e non si è mai accorta del vulcano alla fine che aveva a fianco, perché da buon toscano è veramente divertente e irriverente, e trova sempre, sempre il lato positivo e divertente delle Quindi cose. Sottovalutava il marito, si occupava di altre cose. Come il cotechino che lo metti nella pentola, alla fine poi quando è cotto è cotto. E quindi ha portato avanti questa cosa qua. Ma lei se n'è accorta del marito aveva una relazione, no? Allora ha cominciato a dire che stasera torna un po' tardi, ha cominciato a dire che usciva con un'amica, che tra l'altro insomma io e lei ci conosciamo, per cui... Tu sei un'amica della moglie, sei? No, in realtà sono nata, il tutto è nato come amica di lui, però sicuramente in alcune trasferte, come hai detto tu, o qualche evento sportivo, io e lei ci siamo incrociate. E quando veniva lei in trasferta come gestivate il vostro tempo? Perché era imbarazzante, cioè sia moglie che l'amante nella stessa trasferta. No, in realtà ci siamo mossi sempre nella massima correttezza, è l'unica situazione in cui c'è stata questa compresenza, insomma tutti e tre, è stato proprio gli ultimi giorni prima che lui prendesse la decisione di comunicarlo ufficialmente, quindi in realtà soltanto una volta è stato così abbastanza... Però è stata la volta fatale che l'ha fatto decidere. No. Ha deciso che mai più. Sì, credo che vedendoci spalle distanti, una est e l'altra ovest, sì. Cioè vedendovi di spalle ha scelto te piuttosto che lei? Sì. Sì, che di spalle è un colpo d'occhio migliore, le teorie. Forse anche questo, no? Va bene, non... Non entriamo nel particolare. Non entriamo nel particolare. Quindi alla Tristanzuola cosa gli ha detto a un certo punto? Cara, è finita. E dolcemente l'ha accompagnata in un percorso. Ma dolcemente sembra un'eutanasia quasi, l'ha avvelenata, come ha fatto di dolcemente? Facendo sempre delle conversazioni, spiegando le ragioni di questa chiusura, di questo... Vabbè, non è che c'è tanto da spiegare, sto con altra, ecco. No. Sì, però uno dà anche delle motivazioni, cioè abbiamo avuto delle mancanze. Mica gli poteva dire perché a te ti puzza il fiato, perché te stai sempre con tua madre che sta male, perché te pensi solo al lavoro, perché te sei una prugna secca. Perché te. Però diciamo che esistono storie d'amore in cui evidentemente anche il linguaggio, la conversazione, la comunicazione. Vabbè, diciamo l'ha accompagnata dolcemente, e adesso sì. Se ne è fatta una ragione? Devo dire che so che è ancora un po' in difficoltà, so che non è estremamente felice, so anche che ha cercato di vederlo, di incontrarlo con la complicità di un'altra amica. Ha tentato un ripescaggio? Sì. È pericoloso, però... sai, le mogli poi alla fine dai, vinco. Infatti. Lui ha ceduto al ripescaggio? No, decisamente no. Io tra l'altro ho fatto un po' una mezza bufera a casa, perché non volevo assolutamente che lei prendesse parte a questo incontro, per cui ho detto: tu non ti presenti, ti fai sostituire da un'altra persona. Come, lei vuol vedere l'ex marito e lui ci manda un altro, un amico? No, in realtà non mi sono spiegata. Ah, l'amica, non volevi che l'amica ci fosse? Io ho detto dello sport, lui è un istruttore, per cui lei si era iscritta a una lezione dove... Casualmente poteva... dove c'era lui? Casualmente in quella che faceva lui, esatto. Per cui con la complicità di un'amica che... Vabbè, le amiche sono sempre ruffiane. L'hai scritta a nottetempo, ma scusa, esatto. Ma quale carta nuova... Scusa, fammi capire, io voglio capire la psiche femminile. Quale carta nuova si giocava su un terreno che non è il suo? Tu l'hai portato via al marito sul terreno dello sport, che penso sia più congenere a te che a lei, se no sarebbe andata lei in trasferta con lui a fare sport. Quindi perché va a giocare fuori casa su un terreno che non è il suo? Potrà provare a sedurlo su altri terreni, non lo so quale sia la sua specialità. Seduzione temo che sia un tema che è molto distante. Ma nello sport che altro vuoi fare se non un atteggiamento seduttivo? Parli di filosofia, non lo so. C'è tutto un linguaggio di sguardi e il linguaggio muto del corpo durante un'attività sportiva. Eh sì, ma non mi pare che il corpo sia il suo punto forte, no? Sì, però quando ti presenti magari con un atteggiamento un po' dimesso, un po'... Ah, la vittima, vuole fare la vittima. Ah, questo ecco. È il mio pensiero. Veniva Cenerentola, distrutta. Un po' maligno, però sì, esatto. Andava a farsi vedere quanto era ridotta male. Sì, anche perché l'amica che l'ha iscritta in questa famosa lezione, eccetera, aveva appunto fatto sapere che non stava tanto bene, che era molto dimagrita. Beh, però scusa, ma gli uomini li conoscete o no? Gli uomini di fronte alla donna vittima scappano via gambe levate. Non hanno questo senso, cioè, voi donne, vi piace il sogno di ogni donna avere l'amante nel culmine del suo fulgore che finisce magari come nel film Misery non deve morire, con le gambe sfracellate in modo che sta fermo, immobile, allettato e lei finalmente può fargli l'infermiera per tutta la vita. Le donne pensano questo, ma gli uomini no, la donna che ti mostra patimento, non abbiamo purtroppo, è la nostra natura rapace e infame, capito? La donna che è lì e ti vuole impietosire col fatto che ha le occhiaie, che ha sofferto, che ha pianto, che è dimagrita, ti fa orrore, scappi via, non vuoi saperlo. È vigliaccheria, ma non potrà mai avere chance con te. È il contrario. Si può lavorare tanto sul senso di colpa, no, però, ma... si può lavorare tanto e tante persone lo fanno in genere nelle relazioni. Sì, ma finché tu, finché una persona sotto laccio, sì, col senso di colpa lo puoi annichilire, ma una volta che sta sganciato, basta far vedere il cadavere che esce dal sepolcro, non funziona. Al contrario, se lei si fosse presentata con quattro toy boy d'accompagnatori, super taccata e super attrezzata, magari lui ci faceva un pensierino, ma così proprio non ha speranze. Condivido, dal suo punto di vista condivido, però... No, io non è che... parlo biecamente dei limiti della natura maschile, siccome li conosco non ho pudore a raccontarli, non dico sia giusto, ma è così. No, io condivido in effetti la tua veduta, però ma gli uomini sono così. Ottica, in questo caso, non essendoci stati dei traumi che hanno segnato la vita matrimoniale, il matrimonio si è spento come un interruttore in maniera secca. Ecco, non ma sempre quando finisce una storia si spegne l'interruttore, Fosse anche una storia di 3 mesi di passione, si spegne l'interruttore e ti trovi davanti un'altra persona, non è quella che conoscevi, non la vuoi conoscere, oppure non te ne importa più niente, ti accorgi di tutti i limiti, è come se improvvisamente si accendono le luci in un set cinematografico, ti accorgi che è tutta carta pesta, capito? È scenografia. Sì, d'accordo, però quando un matrimonio è travagliato e si accumulano mesi o anni di incomprensioni o di liti veramente pesanti al limite del rispetto, no? Allora ok, ma quando non ci sono questi trascorsi, e ripeto, c'è anche una chiusura all'insegna della comprensione con un accompagnamento, con tutto il tempo che può servire, quindi io non vado via domani alle 5, ma cerchiamo di capire dove puoi andare tu, dove posso andare io, fa più comodo questo o quest'altro oggetto, cose di questo genere. Quando c'è un accordo veramente all'insegna ormai della fratellanza e così trasparente... Questo vuol dire già molto, non ci sono avvocati di mezzo, non ci sono... Certo, questo agevola. Ma c'erano figli di mezzo? No, questa no. È anche un'altra grande fortuna, manca lo stagio. Ho avuto anch'io un po' di fortuna nella vita. No, manca lo stagio, il figlio è uno stagio che dura per sempre poi, capito? E senz'altro, e poi anche le nuove leggi che hanno agevolato veramente con una firma a ridosso di 3 mesi prima e altri 3 successivi hanno agevolato tutte le dinamiche di uno sgancio anche legale da un rapporto che era morto ma che adesso è anche morto ufficialmente, quindi con la separazione adesso. Quindi tu non hai paura che lui possa ripensarci? No, ormai no. No. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ricordo che da ragazzo ridevo tanto quando qualcuno mi raccontava quella massima che ormai è trita e abusata da quante volte uno la sente dire nella vita, dell'anziano che dice: ma io finalmente... mi sembra di aver capito tutto delle donne, però sono talmente vecchio, mi sono dimenticato di cosa farne poi di questa mia conoscenza. Beh, più o meno forse mi sento in quella situazione, perché mi sembra che oramai c'è una certa dimestichezza nel capire e prevedere quello che potrebbe dirti una donna quando parla di sé, quando parla delle solite cose di cui alla fine vanno sempre a parlare le donne, della relazione, della sicurezza degli uomini, del fatto che non si vuol sentire sola, dell'impegno, di un progetto di vita che loro rende felici. E in fondo anche questa donna ha fatto la stessa cosa, ma ha raccontato tutto di sé, e ogni volta il racconto è divertente, è interessante, incuriosisce, perché le donne sono diverse, ma la chiave finale è sempre la stessa. Cercano la felicità di trovare un uomo che si dedichi a loro, che si occupi di loro, che stringa con loro un patto per la vita. Questo è il massimo appagamento, ma è la stessa cosa per noi uomini. Se ci pensiamo bene, non è esattamente così. Sì, ci affezioniamo, ci innamoriamo, ci piace avere comunque una persona vicino di riferimento, ma in realtà la nostra mentalità è plurima, la nostra mentalità è disponibile comunque a seguire un'infinità di strade, non perché siamo di natura fedifraghi o perché siamo di natura poco inclini a prenderci responsabilità, perché probabilmente non diamo poi alla relazione tutta questa importanza, non abbiamo un punto di riferimento totale nella vita sulla quale incardinare la nostra esistenza. Questo è un limite, questo è un vantaggio, questo è un retaggio arcaico, e questa è una deformazione di quello che in realtà dovrebbe essere il sentire maschile. Non lo so, non lo saprò mai, e in fondo penso che ognuno abbia la propria equazione esistenziale individuale, e non vale per gli altri quello che può valere per noi. Adesso al divorzio manca poco, manca un mese, e lui già parla di matrimonio con me, ne ha parlato. Ma come, volete risposarsi con te? Sì. Ma senti, come l'hai detto? Detto sì. Ma che bello, ma una cosa terribile, scusa. Ma no. Ma che bisogno avete di sposarvi? Fammi capire. Abbiamo bisogno di completare, diciamo così, il nostro rapporto secondo la prassi, cioè di dimostrare che sbagliato un matrimonio se ne può avere un altro, e sì, non ci sono problemi. E si vede che, a lui non è bastata. Beh, a lui si vede che non è bastata. Avrà modo di capire come ripassare per la stessa strada. Noi molte ci volte crediamo, abbiamo la benedizione anche delle famiglie, per cui questo mi preoccuperebbe, però, capito? Questa è la cosa che più preoccupa. Vabbè, adesso questo detto, vivi nell'idillio, dai, sei è come se tu fossi drogata, che devo dirti, chiaro, ti luccicano gli occhi, dici che bello, mi sposo. Sì, già ti vedi col vestito bianco, le valle. No, nessun vestito bianco. Vabbè, vestito grigio, secondo. È anacronistico, non vabbè. Si può. E a me beige. Basta uno con la fascia tricolore, mi faccia mettere una firma e poi andiamo tutti lì a divertirci. A divertirvi, sì. Ma se non lo faceste, cosa cambierebbe la vostra vita? Ah, è una festa che glorifica, che celebra veramente. Beh, festeggia San Gennaro, festeggia Pasqua, che ne so. No, trovati una festa. No, perché dà in qualche modo autorevolezza e quasi sacralità a due vite che, dopo aver commesso comunque, aver avuto degli errori pesanti, degli esiti infelici, si sono. Beh, tu che errore hai avuto? Mica sei stata sposata, te, scusa. Beh, perbacco, io però ho avuto 10 anni di e mezzo di rapporto che dovevano finire, essere coronati in una bella storia, un matrimonio, saltato tutto. Vabbè, saltato tutto, ma grazie a Dio non sta scritto in nessun ufficio comunale, quindi sei libera, non è che hai dovuto fare documenti. No, ma attenzione, quando dopo che lui alla fine ha scelto il lavoro ed è ritornato giù in Sardegna, io sono rimasta qui, ma non è che ci sia stata dall'altra parte la voglia di insistere o recuperare il rapporto, sono rimasta qui da sola, senza alcuna conoscenza, senza nessuna amicizia, perché io ero appena arrivata qua, quindi lui è assolutamente scomparso dalla mia vita, si è reso irreperibile per circa un mese cambiando numero di telefono. Ma sì, che manco lui, nemmeno lui era poi così convinto alla fine. Probabilmente nemmeno lui era così. Dovete farlo, perché ormai eravate sulla strada, esatto. E era più difficile cambiare idea, capito? Sono le stesse cose che a distanza di anni adesso. Ma certo, è andata bene, chiaro. Anche se stranamente dopo un anno e mezzo di latitanza, una bella sera mi telefona e non so perché, ma c'è stato l'ultimo colpo di coda, una telefonata cordiale di saluto. Ma se vuoi te lo spiego, se tu sei pronta a un aspetto crudo dell'umanità te lo spiego. Hai già capito cosa mi voleva dire con quella telefonata? Mi ha rinfacciato, sai cosa mi ha rinfacciato? E ormai era trascorso un anno e mezzo da che mi aveva lasciato. Perché tu il sabato mattina mi obbligavi a svegliarmi alle 8 perché dovevamo andare al mercato a comprare la verdura e non al supermercato. Io in quel momento avevo un bicchiere. Strano però, un anno dopo, io pensavo fosse, guarda, Nella mia malizia pensavo fosse la classica ripresina, dopo un anno diceva vabbè. No, mi ha telefonato quasi per ingiuria, non dico offendermi perché è assolutamente... E si vede che non l'aveva digerito, gli sembrava sufficiente. Così, per nulla, perché tu la domenica passavi la aspirapolvere mentre io volevo andare, non so, ai giardini, al parco. Sì, però questo non è originale, sono i tipici motivi per cui uno arriva a odiare una persona con cui sta assieme. Le cose banali, l'aspirapolvere la mattina è una cosa terribile, l'uscita forzata il sabato è una cosa terribile. Uno le sopporta, poi quando non ce la fa più a sopportarle è chiaro che le rinfaccia. Ma meglio così, mica può dire andiamo a sgozzare insieme le persone, no? È questo il fatto, in fondo sono cose banali, però vedi, doveva elaborare alla fine anche lui il motivo per cui non state più assieme. Evidentemente è una fase catartica, probabilmente c'è un'altra donna che lo fa impazzire, con la quale ha ricominciato una meravigliosa vita. No, in realtà sai come va avanti la cosa, ormai gli anni continuano a sommarsi, passa il tempo, con la madre che mi chiama, non dico tutti i giorni, ma una volta a settimana, con rimpianto, abbiamo perché... molto affetto. Ma perché? E mi informa, mi fa sapere che lui, ahimè, non ha ancora trovato un equilibrio, è sempre solo, è sempre corpiato. Ma perché lo dice a te, dovrebbe essere un problema tuo questo? Perché lei spera, prega sempre la Madonna e spera sempre che io... Che tristezza, ma tu pensa da che inferno ti sei salvata? C'è una madre che prega la Madonna e vi rimettete assieme, ma tu stai per sposarti con altro. Entravi in un inferno, ma ti rendi conto dove stavi andando a finire? Il suo è un amore particolare, mi ha aiutato tanto quando eravamo... Sì, ma Dio ci salvi degli amori particolari delle mamme altrui, ma stai scherzando? Già delle nostre pure ci salvi, se uno volesse proprio dirla tutta, dai. Ma dai, lo sai benissimo, tu sei scappata da un inferno, hai eretto una barriera di cemento armato fra te e quel mondo lì che non c'è più. Spero che adesso tu non te ne crei una prigione altrettanto difficile poi da evadere, capito? Sta attenta. No, immagino che non... Ma non ci vuoi pensare così. Un pochino? Hai un annetto, ci no, pensi? Di no, ma che annetto? No, io di convivenza. Adesso devo preparare tutte le cosine. Ma stiamo già convivendo, ci sono gli shock. E ma da quanto avete convissuto? I vicini penseranno che siamo matti. Ma quanto avete convissuto? Beh, ormai sono 7 mesi. Vabbè, 7 mesi, pensi, 7 mesi tu conosci una persona, 7 mesi... No, ci... però stiamo insieme già da un anno prima e dall'anno prima ancora ci si conosce, cioè ci si conosceva. Assolutamente, vabbè, fai questo passo. Non è poco. No, allora, la mia sicurezza davvero è tangibile, è ferrea su questo tema. Quello che però non voglio che accada più nella mia vita è esattamente quello che hai detto prima, cioè che alcune cose vanno metabolizzate nel tempo e però ce n'è una con cui abbiamo cominciato la nostra chiacchierata, che è la sua gelosia, che mi fa pensare come mai è così geloso e ossessivo. Posso dirti una cosa? Anche se adesso probabilmente poi la sentirà anche lui, non sarà più un segreto, a me questa gelosia mi fa impazzire. Tattizio. Io la trovo estremamente sexy. Guarda, sì, è sexy e gelosia finché non arriva alle manette, che lui abbia questi sguardi fugaci, che lui ogni tanto ci provi a farmi la domandina, ma nessuno è mai stato geloso e finalmente viva un po' di interesse. Andrà bene finché anche tu non c'hai qualcosa da nascondere, cara. Grazie. Vabbè, con questa minaccia direi che è perfetto, la benedizione. No, ma è così, grazie. Tutti piace avere le persone gelose quando uno non c'ha niente da nascondere. Quando uno comincia a averci qualche scheletrino nell'armadio, la gelosia ti rompe le palle, è chiaro. Non so, al momento giochiamo una partita. Ma adesso vivi nell'idilio, in questo momento non sei, diciamo la verità, poi ti lascio in pace e fra un po' avvicina alla mia stazione e rimarrai con il dubbio se ho detto qualcosa che può veramente farti pensare oppure sono solo sciocchezze. Sei in un momento in cui non sei padrona di te stessa, non sei in grado di intendere e volere, come se tu fossi ubriaca. È l'ubriachezza della passione, sei fortemente appassionata, presa, innamorata, grata a quest'uomo, quindi in lui vedi tutti i complimenti meravigliosi della tua vita. Io ti auguro che possa continuare così per sempre, però tieni una piccola riserva per te, perché non hai mai detto le sorprese che dà la vita. L'incontro che potrebbe cambiarti tutto il punto di vista potrebbe essere la prossima stazione anche per te. Volevo giusto dire che invece io da questo vagone non vorrei scendere mai. Vedi, questo è già brutto e lui non c'è in questo vagone, comincia a pensare questo. No, pensavo al vagone mio e suo. No, anche se No, va bene. Vabbè, però vedi, sei ritrovata in un'altra gabbia, un vagone, un treno che va alla deriva con voi due dentro e nessun altro. Cioè, già sei nel perfetta condizione della vittima che deve starsene chiusa dentro la gabbia. Poi mi sto già costruendo la prigione con le mie mani. Vabbè, poi, certo, sicuro, questo è sicuro. Certo, è matematico. Ma c'è chi gli piace essere prigioniero. Dai, ti lascio. Ancora c'è qualche chance prima che il treno arrivi a capolinea, all'ultima stazione. Evviva. Puoi sempre scendere di corsa e vedrai che nessuno ti correrà dietro. Ciao cara, alla prossima. Ciao. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Proprio a contraddizione di quanto ho detto poco fa, quando faccio delle riflessioni ma ruota totalmente libera, leggermente inebriato dall'odore che viene dalle toilette del treno, che alla fine è come sniffare la colla per i ragazzi delle periferie più estreme dei luoghi più disastrati del mondo. Ecco, dopo la mia sniffata di cesso di treno comincio a avere visioni e mi guardo l'audiolettera di questo ascoltatore che mi scrive con un problema totalmente opposto quello che poco fa io stavo elaborando nella mia mente inebriata. Beh, lui invece ha un chiodo fisso, e il chiodo fisso è la sua fidanzata. Caro Gianluca, non sono mai stato un tipo geloso, anche perché ho sempre pensato che se una donna mi vuole tradire o mentire, lo farà sempre meglio di quanto possa farlo io. Del resto, chiunque sia stato sposato o fidanzato sa che un po' di gelosia in realtà ci sta tutta in una vita di coppia, perché se si è completamente indifferenti, forse di quella donna non ce ne frega poi molto. Ma ultimamente mi sono scoperto geloso, e anche molto, a causa di una situazione che ora ti riassumo. La settimana scorsa tu hai fatto due chiacchiere sul tuo treno con un fisioterapista e senza volerlo mi hai messo il dito nella piaga. E ti spiego il perché. La mia fidanzata, che è una bella ragazza di 28 anni, ha recentemente avuto diversi problemi con la schiena. Ti risparmio la diagnosi. Fatto sta che l'ho mandata da un mio caro amico che fa il fisioterapista e del quale mi sono sempre fidato, anche se so quanto gli piacciono le belle donne. Alla prima seduta ero presente anch'io e, nonostante la sua indubbia professionalità, vedergli manovrare le mani sulla schiena o il collo della mia fidanzata mi ha turbato. Anche se era una situazione tranquillissima, chiacchieravamo tutti e tre amabilmente. Alla seconda seduta ho pensato bene che non aveva senso ripresentarmi lì con la mia ragazza. Lei è tornata a casa anche questa volta entusiasta. Si sente rimessa a nuovo, ne giova tutto il corpo. Mi dice anche che ci vorrà tornare spesso. E così è stato. Da quel momento, però, ogni volta che lei va a fare una nuova seduta di fisioterapia, non riesco a non sentirmi addosso un forte senso di gelosia. L'idea che a lei piaccia così tanto essere toccata da un altro uomo, anche se a fini terapeutici, non mi lascia tranquillo. Beh, mio caro, fai bene a non stare tranquillo. Diciamo che la gelosia si autoalimenta sul sospetto, poi alla fine diventa una malattia. Certo è che vedere un gagliardo fisioterapista, anche se amico, stendere sul lettino la tua bella, che sai bella, avvenente, provocante e disinibita, probabilmente tu la conosci meglio di tutti noi, lui che la manipola e lei che geme di piacere e lei che dice quanto le fa bene questa cura, beh, sembra l'inizio di una barzelletta di quelle che raccontano nei film di Pierino con Alvaro Vitali. Ma come è andata a finire poi? Ora mi trovo nell'assurda situazione in cui vorrei avere delle prove se su quel lettino succede qualcosa di più di una semplice terapia. Non dico fisicamente, ma anche solo mentalmente. E non so cosa fare. Al mio amico non ho niente da dire, non ho nessuna prova che si approfitti della situazione. Se glielo dicessi rischierei solo di fare una figuraccia. E allo stesso tempo mi trovo nel dubbio su cosa dire alla mia fidanzata. Le vorrei dire che preferirei che interrompesse gli incontri. Ma come lo motivo? Forse la mia ansia è accentuata dal fatto che lei con me a volte mostra segni di nervosismo e non so perché. Non ho nemmeno capito se lei si mostra tanto entusiasta per questa fisioterapia intenzionalmente per irritarmi o solo perché è sincera. Visto che tu non fai sconti a nessuno, vorrei sapere tu che cosa faresti. Se rischieresti di fare la figura di quello esageratamente geloso, senza motivo, o se invece taceresti, sperando che il sospetto del tradimento vada via da solo. Io però, in questa situazione, sento rodermi il fegato, sempre di più. Sto pensando di chiedere alla mia fidanzata di cambiare fisioterapista, perché non voglio sentirmi obbligato verso il mio amico, che ci fa pagare le sedute alla metà del prezzo che applica agli altri pazienti. Ma forse anche questa non è una buona idea. Beh, è un bel dilemma, devo dire un bel dilemma. Come ti muovi male. Se fai il geloso e fai le scenate, rischi che lei per vendetta proprio cede quell'ultimo barlume di intimità su cui ancora non ha messo le mani il fisioterapista, almeno me lo auguro per te. Se fai finta di niente, tutto avanti tranquillamente per la sua strada. Può esserci stato il fattaccio, magari una cosa sporadica, momentanea, si consumerà soltanto in attimi fuggevoli di piacere struggente, di passione infinita. Poi lei magari, finita questa estrosa terapia, tornerà da te e sarà sempre la tua fidanzata. Può essere che non accada nulla, che sono le tue le semplici folli elucubrazioni di un uomo geloso, ti stai facendo chissà quale film in testa, invece va lì, lui la manipola, lei sta bene, magari si stanno simpatici. Certo è che una cosa posso dirti e che probabilmente potrebbe essere per te una prova di certezza, visto che tu da probabile e cornuto immaginario alla fine farei di tutto per esserlo veramente. Tu mi dici che il tuo amico fisioterapista ti fa pagare soltanto metà della terapia. Beh, se verrà un giorno che lui dirà: guarda, ti sono tanto amico che da oggi non voglio che tu mi paghi, beh, se la terapia inizierà ad essere proprio totalmente gratis, io ho qualche lecito sospetto che in realtà il compenso si collochi in ben altra natura e in ben altro luogo, probabilmente ce l'avrei, fattene una ragione. Si avvisano i viaggiatori che il treno da delle 11 ripartirà domenica prossima dalla stazione di Radio 24. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.